Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Nel momento in cui io vi parlo, non so e non sappiamo quali saranno gli sviluppi futuri dell'inchiesta che sta conducendo la Procura di Cremona sul calcio a scommesse, sulle inchieste che stanno conducendo anche i magistrati della Procura Antimafia di Napoli. In questo contesto di calcio sporco, di sport che va alla deriva, mi piace segnalare un libro che ha raccontato, quando ancora queste cose ovviamente non si conoscevano, che in questi giorni in libreria, ha raccontato, dicevo, proprio le vicende del mondo sporco delle scommesse. Il libro si chiama proprio Gioco Sporco, è edito da Baldini, Castoldi e Dalai ed è scritto da un giovane e valente giornalista di Panorama e Panorama Economy, che è stato anche premiato per molte sue inchieste, che si chiama Gianluca Ferraris. Buongiorno Ferraris. Buongiorno a voi. Allora, questo libro quindi non è un libro di fantasia, è un libro che racconta anche ciò che tu hai visto. Dici qualcosa a questo proposito? Assolutamente, questo libro nasce dall'osservazione della realtà. Si tratta di un romanzo, non di un saggio. Purtroppo però tutto quello che vi è contenuto prende spunto dalla realtà e da quelle che sono state le operazioni degli ultimi anni, che hanno registrato una crescente infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo del gioco e delle scommesse, sia legale che illegale. Ecco, quando noi parliamo di gioco, ahimè parliamo di ogni forma che dovrebbe essere puramente ludica e ludica solo. Non è quindi, diciamo così, che andiamo dal calcio all'ippica, dal gioco, come dire, delle famose slot machine a qualsiasi altra forma di supposto divertimento. Cos'è che tu hai messo più in luce o cos'è che ti ha colpito di più nel racconto a cui tu hai dato vita? Beh, negli ultimi 4 anni il fatturato del gioco in Italia è praticamente quadruplicato. Siamo ormai circa 61 miliardi l'anno, il che significa che ogni italiano adulto ha giocato in media più di 190 euro quest'anno. Sì. Tra le altre cose, ce lo siamo detti anche fuori onda, io alcune settimane fa ho scritto un'inchiesta sul gioco d'azzardo e con una stima prudenziale, oltretutto fatta dalla Guardia di Finanza in maniera, come dire, informale e con altri organi inquirenti, arrivai alla cifra di 30 miliardi di euro che ogni anno vanno nelle casse delle mafie. Poi sono rimasto sorpreso perché ho letto recentemente che il presidente della Commissione Antimafia, Beppe Pisano, addirittura arriva a 50 miliardi. Quindi mi pare che la stima, la mia, sia stata addirittura sottostimata, ma è una proporzione colossale, Gianluca. È vero, è vero. Bene, basti pensare che nei momenti di crisi tanti invocano la consolazione della dea bendata e affollano le ricevitorie, ma tutti gli analisti concordano sul fatto che quel fatturato cresciuto 4 volte nasconda anche un fiume di soldi scaturito dall'economia sommersa. Assolutamente. Tra le dediche, io vado sempre a leggermi le dediche perché per me sono importanti, lo vedo nei libri che scrivo io, quindi vado subito a vederlo nel quello che scrivono gli altri. Gianluca scrive: a zio Giovanni, Elisabetta e Giorgio per avermi insegnato che il sud è fatto di persone splendide. Allora, caro Gianluca, non c'è differenza tra nord e sud nella propensione all'infiltrazione e nel riciclaggio, purtroppo, dei capitali sporchi proprio nel mondo del gioco? Assolutamente no, il nord e la Lombardia in particolare da questo punto di vista sono un mercato ricchissimo, e questa è anche una delle molle che mi hanno spinto a scrivere questo romanzo, perché moltissimi nell'ultimo periodo hanno raccontato l'espansione a nord della criminalità organizzata, che è un fatto allarmante. Pochi però hanno sottolineato come sin dall'inizio della sua espansione una delle teste di ponte utilizzate dalla criminalità organizzata per penetrare nel sistema economico legale sia stato quello dei giochi e delle scommesse. Si è cominciato negli anni 60-70 con l'ippica e con le bische clandestine. Adesso, con questo paradosso, ossia la scelta di legalizzare le scommesse che doveva servire a contrastare la rete di raccolta abusiva gestita dalla criminalità, oltre che a rimpinguare le casse dello Stato, si è trasformata in realtà nella più semplice opportunità per i clan di ripulire denaro. Certo, allora io invito tutti a comprare Gioco Sporco di Gianluca Ferraris, un romanzo di camorra, 'ndrangheta e scommesse, ma abbiamo ascoltato dalla viva voce del collega di Panorama e Panorama Economy che è un romanzo in cui le parti di verità che lui ha vissuto in prima persona la fanno da padrone. Quindi fidatevi dei giovani, devo dirlo perché sono estremamente felice, quindi qui mi riaggancio alla mia premessa: quando le giovani leve del giornalismo si dedicano soltanto, come purtroppo ahimè accade, a culi e tette, ma vanno invece in profondità a vedere le parti malsane di questo paese. Grazie Gianluca per il tuo lavoro, buona fortuna per il tuo libro, sono sicuro che ci sentiremo ancora. Grazie a Paolo Corleoni in regia e a Laura Faggini in studio. Da Roberto Galullo una buona giornata.